Adesso sì, bene, mi senti anche tu? Scappa che ti sento adesso. Ma mi senti bene? Sì che ti sento bene. Aspetta, devo avere anche l'altro. Cavolo. Hai visto, va bene, dai. Arri qua, arriva a fondo scala, vabbè, siamo vicini. Sì, anche col macchino arriva a fondo scala. Che siamo vicini, dai. Ma voglio avere più bene adesso. Avanti tranquillo, sì. Beh, come mi senti adesso a me? Bene. Ciao. Questo sarebbe il canale 7, giusto? Questo è il canale 7 PMR. Bravo, ci sei arrivato. Hola, chicos. Hola. Hola, cosa sei venuto nel detersivo? Adesso va bene. Sei perfetto, sì. Ma io bip non ne ho. Ce l'ho il bip? No. Io c'ho il bip. Tanto guarda qua che c'ho io, aspetta, mando la foto. Cappa. Bip, dicelo. Sei tu come mi senti? Bene mi senti? O male? Io ho quella della Inter, Cantù. Non ho capito. Ciucu giù. Ehi, ma se io metto il gommino mi sento lo stesso. È normale. Io sono sul tetto, no. Ma quello non lo stai più usando, vero? Tanto, ma che ne ascolti. Questo? No, poco. Sì. Già andava. A me come ascolti, bene o male? Come arrivo io? Cappa. Mi senti tu, Antone? Ah, ok, meglio così, là. Io sono coricato qua. Qui c'è Harry Potter, la camera dei segreti. A Italia 1. Hai visto Harry Potter? La camera dei segreti. Male che sono bastone, infatti, non so, karaoke. Luca, ci sei ancora? Sì, sono qua. Cappa. Ha detto domani fate un karaoke chi dove? Ma non posso uscire, magari per un fa. vabbè. Ma quando deve andare sta PS? No, lunedì devo andare in farmacia. A fare il tampone, sono negativo, bene, se io devo stare ancora a casa. Andare gratis. Ma quello te lo dice subito. Allora, lo trasmettono che sono negativo e posso uscire. Cappa, ma stai bene di salutare? Sì, è un po' la gola irritata e basta, niente di speciale. Anzi, adesso ce l'ho un po' irritata perché ho mangiato la pizza. Sai che la pizza è un po' raschia. Cazzata, e tu mi ha passato tutto. Sono voi che sei in line. Pomponio, ci sei? Ehi, a voglia, mi senti bene, sì? Sì, io ti ascolto bene, a voglia. Non so se mi senti bene tu. A me, A voglia, sei in fotoscala. Allora già va bene. E siamo distanti, Antonio arriva benissimo, già va bene così, dai. Anche se la frequenza è un po' così. Ehi, già lo so, infatti. Sono 5 watt quelli che pompa qua. Cappa. Purtroppo ho appena sul tetto io non ce l'ho. Già è giusto. Sento con questo, se hai l'antenna sul tetto esci forte. Non ho capito. Questo, se hai l'antenna sul tetto esci forte. E ci sono stato infatti io l'antenna. Per ricevere. Una e l'altra, cioè verticale e orizzontale. Ma sai, mi muovo a pure l'antenna così. Infatti dicevo anche i cosi, quelli che vanno dall'ospedale, figurati tu, da pronto soccorso, fino a terzo piano, dicevo. Ma è autocostruita, quella? No, mi hanno regalato, la verità, la direttiva. Se ha avvelenata la cosa è tutta un'altra storia. Io, infatti, è così. Sento tutti. 433, 25 canali 1, in pratica lo usano il torna in a pronto soccorso, quindi figurati tu, quando tu entri ti puoi spostare e ascolti a loro. Cos'è questo rumore? Aspetta un secondo, sono di quando subito. Vedi Luca. Anche tu grazie Calino. anche a me mi pare i prezzi già pauper. Sì, sono uguali. Poi boh, non so come affrontare a me, si sono belli, sono belli. Già funzionano, finché vanno. Ciappa, ora c'è cosa avvitare, c'è per attaccare l'antenna sul tetto. Cosa tu? Hanno la fare avvitare. A fare avvitare che cosa? Per attaccare l'antenna grande. Per forza, ci vuole il riduttore. Via, ci vuole il riduttore. Io sogno, via via, io, da qualche parte. Cappa cappa. Questo male è venno, è sabato domenica e lunedì, che andare luni, crocco. Ma a me mi basta che arrivi venna, cioè, che sabato soprattutto. Sì, da poi marina si può uscire, esci, media età. Poi già sono di punuta. Non so curioso quanti pazienti. Vabbè, al limite se si vuole avvicinare. Non c'è problema, già adesso vediamo. Sono entrato. Cosa vuoi qua? Senti, sì. Nuda. Ah, vabbè, se si vuole avvicinare non c'è problema, basta dirlo. Se vuole uscire già sta con noi, non so. Poi da lì, non lo so. Cappa. Io non mica dico dove andare, ci mancherebbe. Ah, già non c'è problema. Come ti dici, già è mano vaccinata. Avanti, buon po'. Ehi, pensavo non mi sentivi per niente. Ma chi io? Ehi, tutti e due, no? Solo tu, no. Sì che ti sento. Ah, meglio così. Sono io con la direttiva, figurati. A voglia, tu lo senti da pompone? Sì che lo sento. Bene, mi senti, Anto? Sì, sì, ti sento benissimo, tu mi senti bene. E a voglia, sono con la direttiva, figurati. Dove l'hai puntato? Verso di noi. Già va bene, a voglia. Faccio un rottino, stavo facendo cazzo. Brava. Di lusso. Ehi, dimmi. Ah, sì, già. Pensavo che è sparito. No, già ci sono, già ci sono. È troppo chiuso pure, che non lo dormire. Ma pensavo che è sparito. Dai, io chiuso, dai, buonanotte, che mi sono controllato. Ciao a tutti. Ciao Anto, e anche voi. Mi sta aspettando dopo la vostra. Ehi, dai, ci sentiamo, dai, ciao. Ciao, ciao Pompù, buonanotte. Ehi, ciao. A domani, buonanotte, buon tutto.